Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Influenza suina, più di 150 i morti in Messico, ma rallenta il numero dei decessi, secondo caso confermato in Spagna. In Europa salgono quelli accertati a 3. E la paura per l'epidemia fa andare giù le borse, penalizzati anche i bancari. Il Papa nell'Abruzzo terremotato, ora bisogna costruire case e chiese solide, dice Benedetto XVI, lo dobbiamo alle vittime. Maltempo in tutta Italia, difficoltà soprattutto nel nord-ovest, a minuti è prevista la piena del Tanaro nell'Alessandrino. Allagamenti e disagi a Roma, in XL le previsioni meteo per i prossimi giorni. Ponte del primo maggio, altre previsioni, quelle di Federalberghi, più italiani in vacanza rispetto all'anno scorso, ma spendono molto meno. Fiat Chrysler, il nodo sono ancora le banche. Il tesoro americano minaccia l'amministrazione controllata per spingere all'accordo. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. In primo piano il punto sull'influenza suina. In Messico è salito oltre 150 il numero dei morti, anche se, fa sapere il Ministero della Sanità messicano, sembra rallentare il ritmo dei decessi, segno che forse, e sottolineiamo il forse, le cure con gli antivirali iniziano ad essere efficaci. Per gli aggiornamenti abbiamo in studio la nostra collega Adriana Fracchi. Adriana. Sì, buongiorno. Come avete detto, è salito il numero delle probabili vittime dell'epidemia di influenza suina in Messico. Sono 152, secondo un bilancio ancora provvisorio, come ha annunciato il ministro federale della sanità messicana Cordova. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto salire il livello di allerta da 3 a 4 su una scala di 6, anche se per oggi non prevede nessuna nuova riunione del comitato d'emergenza. This virus is still very much in its early days. We don't have enough information on quella che state sentendo è la voce di Gregory Hart, portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi in conferenza stampa a Ginevra, parlando del virus, ha detto che è ancora ad uno stadio iniziale, che bisogna ancora capire bene come si trasmette e perché finora i decessi sono avvenuti soltanto in Messico. Inoltre ha detto che al momento l'OMS non raccomanda restrizioni sui viaggi né la chiusura delle frontiere. Intanto, dopo gli Stati Uniti, dove i casi segnalati sono oltre 40, dopo la Nuova Zelanda e l'Australia, dove sono 100, anche in Cina si sta indagando su diversi casi sospetti ed è confermato un caso di contagio in Israele. In Europa invece i casi accertati sono 4, 2 in Scozia e 2 in Spagna e ci sono 3 casi sospetti in Germania. In Italia al momento non si segnala alcun caso, anche se il sottosegretario alla salute Fazio dice che è possibile, anzi probabile, che prima o poi il virus della febbre suina possa arrivare anche da noi. Il ministro del welfare Sacconi invece dal canto suo ribadisce che la situazione è sotto controllo, che non bisogna sottovalutare il problema, ma che allo stesso tempo non bisogna creare allarmismi. In chiusura vi ricordo che da oggi è possibile rivolgersi al numero 1500 del Ministero del Welfare e della Salute per tutte le informazioni sull'influenza suina. Il numero gratuito è gratuito ed è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 ed è tutto per ora. Grazie ad Adriana Fracchi. L'avete sentito dunque, il sottosegretario alla salute Fazio ha detto che è prevedibile naturalmente che questa epidemia possa arrivare anche nel nostro paese, ma in Italia siamo preparati ad affrontare un'eventuale pandemia? Sentiamo Enrico Girardi, direttore del Dipartimento Epidemiologico dell'Ospedale Spallanzani di Roma, uno dei riferimenti in caso di epidemia, che è stato ospite questa mattina di Giuliano Ferrara, e parliamo con l'elefante. Dobbiamo distinguere due aspetti, appunto. Da una parte chiedersi, possiamo noi prevenire che una pandemia, qualora si sviluppi, arrivi in Italia? Ma questo è molto difficile, cioè pensare che a fronte di uno sviluppo globale di una pandemia ci possa essere un paese che ne resti indenne o quasi indenne è, diciamo la verità, un po' un'illusione. Purtroppo le malattie infettive non conoscono frontiere, pensare di fermarle ai porti o agli aeroporti è un po' un'illusione. Io penso che però noi siamo veramente oggi in grado di far sì che questa pandemia, qualora arrivasse, non raggiunga mai quelle dimensioni catastrofiche che qualcuno ha ipotizzato. Tra i paragoni forse sballati che si sono fatti e gli appellativi inappropriati usati in questi giorni, ho sentito parlare di nuova spagnola. Ecco, io direi che la nostra situazione è quella di poter impedire che si verifichi una nuova spagnola, cioè avremo forse una pandemia influenzale, l'avremo forse da questo virus, ma non siamo in grado di dirlo, ma abbiamo ottime ragioni per pensare che questo non si trasformerà in un disastro sanitario per il nostro paese. E la cosiddetta influenza suina, ma non solo quella, sta influenzando pesantemente l'andamento delle borse. Deborah Rosciani, in che modo? Sì, buongiorno. Come a dire, il mercato sostiene in queste ore ci mancava pure questa. Il mercato sta cercando anche un po' di quantificare il danno economico che questa ennesima crisi sta determinando. Ovviamente fare questa quantificazione al momento è del tutto impossibile. Intanto quantifica il mercato azionario. Ieri borse ballerine, oggi invece discese piuttosto nette. Parigi meno 2, Francoforte meno 2,38, Londra meno 2,10, in mattinata perdevano anche di più, i principali indici sono arrivati a perdere più di 2,5 punti e Milano ha sfiorato una perdita di 3,5 punti sull'S&P MIB, adesso c'è un cenno di miglioramento, meno 2,94%. All'influenza suina oggi si aggiungono anche le rinnovate preoccupazioni sull'andamento del comparto bancario, perché la Banca Centrale Americana ha prospettato a Citigroup e a Bank of America la possibilità di dover lanciare un aumento di capitale in seguito all'esito dei cosiddetti stress test che l'amministrazione americana sta conducendo sui bilanci bancari. Peraltro queste due banche sono anche apparse piuttosto irritate per la circolazione di queste anticipazioni sulla stampa americana. Di fatto c'è una reazione molto negativa per i titoli bancari in tutta Europa e presumibilmente anche Wall Street oggi aprirà male. Per ora è tutto. E tra l'altro di banche americane torneremo a parlare fra poco per fare il punto sul loro ruolo nella trattativa tra Fiat e Chrysler. Adesso noi torniamo all'Italia, parliamo di maltempo, Alessandra. Sì, perché nelle ultime ore sta interessando un po' tutta l'Italia. Ieri, lo ricordiamo, 2 morti in Sicilia per il forte vento e un disperso a Broni, in provincia di Pavia, per una frana che ha fatto crollare una casa. Ma ora facciamo il punto su come oggi la situazione. La pioggia per ora non dà tregua e non consente di abbassare il livello di attenzione, soprattutto nelle regioni del nord. In Piemonte il Po è costantemente monitorato, ma l'allerta è soprattutto per il fiume Tanaro, al colmo di piena proprio in questi istanti nella zona di Alessandria, come ci conferma Davide Rabuffetti, ingegnere idrologo di ARPA Piemonte. Diciamo che Alba e Asti la piena è passata e adesso è nella zona di Alessandria. Per cui siamo già al colmo, un colmo che perdurerà fino al primo pomeriggio sicuramente. Noi ci aspettiamo un livello non da esondazione. Le conseguenze localmente sono legate a un ponte storico, quello della cittadella di Alessandria, che potrebbe arrivare al limite dell'occlusione, per cui localmente potrebbero esserci interessamenti di questa struttura, mentre a monte, a valle ci saranno esondazioni nelle zone golenali, quindi quelle prossime al corso d'acqua, ma le arginature non sono in pericolo. Problemi per il maltempo non solo in Piemonte. In Val d'Aosta la neve anche a bassa quota causa disagi alla circolazione. Per l'alto pericolo valanghe o smottamenti, alcuni valli e molte frazioni sono isolate. E ancora in Liguria alcune famiglie sono state fatte evacuare a Cairo Montenotte nel Savonese e a Ceriana nella provincia di Imperia, dove rimane alto il pericolo frane. Disagi anche a Roma per la pioggia incessante, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti o alberi caduti, ma i disagi sono in diminuzione, come ci hanno detto dal settore meteo del Centro Funzionale della Protezione Civile. Sì, andranno a diminuire perché è una situazione in cui con gli allagamenti che ci sono stati in città e anche il persistere di piogge deboli magari continua a provocare disagi, ma più per la pioggia pregressa delle ultime ore che non per quella che si andrà a innestare nelle prossime ore. Insomma, ancora delle piogge, però a carattere meno intenso e battente di quelle che ci sono state. E al sud questa mattina sono ripresi i collegamenti con le isole Eolie, ancora interrotti invece quelli con le altre isole minori. Roberta Pellegatta, GR24, Sole 24 ore. E a causa del maltempo il Papa, per la sua visita nelle zone terremotate d'Abruzzo, si è dovuto spostare in auto e non in elicottero. Maltempo che dunque riguarda anche i paesi colpiti dal sisma, o almeno li ha riguardati. Ci colleghiamo con il nostro inviato Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Buongiorno ai nostri ascoltatori, una visita, quella del Santo Padre, che ha portato un messaggio di conforto a quanti piangono parenti ed amici rimasti sotto le macerie, ma anche molto entusiasmo tra gli sfollati che dal 6 di aprile vivono il disagio di non avere una casa. Oltre mezz'ora a Donna, il paese più colpito dal sisma, e poi la visita all'Aquila, alla Basilica Trecentesca di Colle Maggio, dove sono state esposte le spoglie di Celestino V, il raccoglimento davanti alla Casa dello Studente ed infine la caserma qui della Guardia di Finanza di Coppito. Queste le tappe del Pontefice nel capoluogo abruzzese. Gli abruzzesi, anche in nome delle persone morte sotto le macerie, ha detto il Papa, attendono di veder rinascere questa loro terra che deve tornare ad ornarsi di case e di chiese belle e solide. Nel suo intervento molto rapporto diretto, lontano dai formalismi. Benedetto XVI ha voluto idealmente abbracciare con affetto uno ad uno gli sfollati, ma ascoltiamo un passaggio del Pontefice. Ho seguito con apprensione le notizie, condividendo il vostro sgomento e le vostre lacrime per i defunti, insieme con le vostre trepidanti preoccupazioni per quanto in un attimo avete perso. Ora sono qui tra voi e vorrei abbracciarvi con affetto uno ad uno. La Chiesa tutta è qui con me, accanto alle vostre sofferenze, partecipe del vostro dolore per la perdita di familiari ed amici, desiderosa di aiutarvi nel ricostruire case, chiese, aziende crollate o gravemente danneggiate dal sisma. Un richiamo infine al Santo Padre affinché la comunità civile faccia un serio esame di coscienza per quanto accaduto, perché, ha spiegato Benedetto XVI, il livello delle responsabilità mai venga meno. A questa condizione, anche se ferita, concluso il Papa, l'Aquila potrà tornare a volare. E dall'Aquila è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto, per raccogliere fondi in favore dei terremotati, il mondo della musica si sta mobilitando. A volte sono solo, a volte se mi siedo non ci sto. Il primo è stato Biagio Antonacci. Il 6 aprile, il giorno del sisma, si era esibito al Pala Lottomatica di Roma e lui ha devoluto alla Protezione Civile la cifra del suo compenso e anche di più. Gianni Morandi ha tenuto un concerto improvvisato nella tendopoli di San Gregorio e ha annunciato che devolverà l'incasso delle due serate di Chieti, 23 e 24 maggio. Quante gocce di rugiada intorno a me. Un abruzzese doc, Franza Di Cioccio, ha raccolto per questa sera tante star della musica italiana a Milano, al Pala Sharp. Ci saranno Vecchioni, Renga, Finardi, Silvestri, Levin, After Hours, Le Vibrazioni e Mauro Pagani. Quest'ultimo, proprio in questi giorni, ha riunito nelle sue officine meccaniche 55 artisti italiani per incidere il brano Domani, che uscirà l'8 maggio. Ho visto la gente della miglia andare via. E mentre anche le prime donne Giorgia Mannoia, Elisa e Nannini cercano di organizzare per giugno una data a San Siro, chiamate da Laura Pausini, i nomadi hanno già staccato l'assegno. Come racconta Beppe Carletti, 52.845 euro raccolti dai fan sabato sera a Modena. I fan dei nomadi, adesso non voglio mica offendere gli altri, però sono unici. Noi abbiamo dato mandato alla presidentessa della provincia dell'Aquila che veda un po' lei tra bambini e studenti. Ci sembrava giusto perché diciamo che i bambini sono gli uomini del domani e gli studenti perché hanno bisogno di studiare veramente, perché domani potranno essere anche loro chissà dove a comandare, o la provincia o la regione o l'Italia stessa, per cui c'è bisogno che la gente studi. Marta Cagnola, GR24, il Sole 24 Ore. Le 13, 16 minuti, 46 secondi. Nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato dell'influenza suina. Sono più di 150 i morti in Messico. In Europa sono 4 i casi. Abbiamo parlato anche delle borse, perché la paura per l'epidemia le fa andare giù. Abbiamo parlato della visita del Papa in Abruzzo. Dice: ora bisogna costruire case e chiese solide. Adesso parliamo dell'accordo Fiat Chrysler. Un accordo che sembra sempre più vicino. Il nodo a questo punto, dopo che è arrivato di fatto l'accordo sia con i sindacati americani che con quelli canadesi, sono le banche americane creditrici di Chrysler, che sembrano non voler cedere. Ricordiamo che l'amministrazione Obama in sostanza gli ha detto: vi dovete accontentare di avere meno crediti, però in cambio potrete entrare poi a far parte di Chrysler. Sì, tra l'altro il tesoro americano ha fatto balenare l'ipotesi che si possa mandare l'azienda in amministrazione controllata. Cosa questo voglia dire e che impatto ha sulla trattativa? Lo chiediamo a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che però in questi giorni è a Milano ed è qua con noi in studio. Mario. Sì, beh, direi è una minaccia, perché se l'azienda va in amministrazione controllata i creditori non potranno più incassare immediatamente quello che vorrebbero. Le banche complessivamente hanno un'esposizione di 6,9 miliardi di dollari, 4,2 su 4 banche, il capofila è JP Morgan. JP Morgan resiste molto questa spinta del governo americano. A questo punto ciascuno ha fatto un passo in avanti, il pacchetto è quello di dire rinunciate a una parte del vostro debito, il resto lo prenderete in azioni. Su questo si sta negoziando, c'è un braccio di ferro, l'amministrazione controllata serve a spingere le banche ad essere più comprensive, la distanza a questo punto si è ridotta a 750 milioni di dollari, cioè le banche sono pronte a incassare 3,75 miliardi di dollari, il governo ne offre 3 e quindi su questo si sta negoziando, un negoziato a tutto campo perché alla Fiat potrebbe essere chiesto di rinunciare un pochettino alla sua piattaforma azionaria, quel 20% su cui sembrava ci si fosse accordati, il braccio di ferro è in corso e entro domani o dopodomani dovremo trovare una soluzione. Quindi a questo punto secondo te Mario questa soluzione si troverà, visto che i termini sono brevissimi, entro giovedì? Penso e spero di sì, quando a quel punto è partito un negoziato, un po' un negoziato al suc se vogliamo, perché siamo partiti da posizioni opposte, a questo punto si è scesi a 750 milioni di dollari, si stanno negoziando le percentuali, ecco le banche insistono, vorrebbero il 40% del pacchetto azionario Chrysler o del pacchetto azionario della nuova Chrysler e gli altri invece gli offrono il 10-15%, ecco anche su quello si dovrà negoziare, però io spero proprio che si arrivi a una conclusione, perché se davvero si andasse in amministrazione controllata e quindi poi le banche dovessero ricorrere al tribunale, beh non è che ci guadagnano molto, quindi nell'interesse di tutti arrivare al più presto a un accordo. E grazie a Mario Platero per essere stato in studio con noi. Dalle questioni di politica economica americana andiamo alla politica di casa nostra, Alessandra. Sì, dopo le polemiche sui cosiddetti medici spia, cambia il disegno di legge sicurezza. C'è accordo nella maggioranza e la norma del disegno di legge che dà ai medici la possibilità di denunciare gli immigrati clandestini viene, almeno per il momento, completamente eliminata. Ma ci sono anche altre cose che cambiano. Per avere chiarezza su tutto questo ci colleghiamo con la nostra Elisabetta Fiorito da Montecitorio. Elisabetta. Sì, buongiorno, riunione di maggioranza questa mattina al Senato per il disegno di legge sulla sicurezza che è attualmente all'esame della Camera, i bizantinismi della politica italiana. Comunque, intesa raggiunta tra PDL e Lega, verrà stralciata, come avete detto voi da studio, la norma sui medici spia, mentre la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione verrà allungata fino a 6 mesi e le ronde ci saranno perché si torna al testo originario approvato a Palazzo Chigi. Quindi la Lega mette a segno 2 punti e rinuncia ai medici spia. Per Roberto Cota del Carroccio c'è accordo nella maggioranza e la lotta all'immigrazione clandestina non dovrebbe avere bandiera, ma invece l'opposizione promette battaglia. Per Antonello Soro del Partito Democratico il disegno di legge va cambiato in molti punti perché contiene norme che spingono gli stranieri alla clandestinità anziché favorire la loro emersione. Il nostro giudizio, dice Soro, sul provvedimento è negativo perché sono presenti una serie di misure contrarie alla cultura giuridica del nostro paese e al nostro senso d'umanità. In sostanza l'opposizione chiede che il governo non ponga la fiducia sul disegno di legge. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Del resto perplessità sul DDL sicurezza o su alcune norme di questo DDL non erano state espresse, Alessandra, solamente da deputati del Partito Democratico. No, infatti c'erano stati ben 101 deputati del Popolo della Libertà che avevano firmato contro in particolare questa norma sui cosiddetti medici spia, norma che era voluta soprattutto dalla Lega. Fra appunto i firmatari di questo documento c'era anche Alessandra Mussolini che tra l'altro annuncia un emendamento per eliminare il reato di clandestinità. Paolo Piacenza l'ha intervistata. Un conto è inserire una fattispecie di reato dove c'è la detenzione, un fermo, cioè una cosa che ha un senso. Altro è fare un reato di clandestinità con un'ammenda e crea solamente un impedimento dell'emersione della clandestinità. Cioè i clandestini non emergeranno più perché non potranno presentarsi ai municipi, ai comuni, all'iscrizione all'anagrafe. Nella battaglia per l'abolizione dell'obbligo di denuncia dei clandestini da parte dei medici aveva pesato molto il documento dei 101 parlamentari di cui lei si era fatta portavoce. Ora qual è il clima che si respira all'interno del PDL sui punti da lei sollevati? C'è un uguale consenso? Beh, adesso vediamo, in ogni caso ci sono questi problemi perché le conseguenze sono il reato di clandestinità, quindi noi dobbiamo inserire anche negli istituti scolastici il divieto di segnalazione, perché se no sono obbligati gli insegnanti a farlo. Togliere, io ho fatto un emendamento per togliere anche 200 euro di ulteriore balzello che devono pagare, perché significa che poi non richiederanno più i documenti oppure li dovrà pagare se regolare il datore di lavoro. Insomma, sono cose di buon senso se si vuole far uscire i clandestini dal mondo invisibile è un conto, altrimenti vuol dire che noi continuiamo a tenerli sempre più nella clandestinità. La Lega dice che gli italiani condividono la loro battaglia. Credo gli italiani vogliano mandare i loro figli a scuola sapendo che magari i bambini che sono extracomunitari abbiano tutte le vaccinazioni oppure che si possano far curare, questo credo che vogliano gli italiani, oppure sapere che c'è un numero di clandestini che invece vuole mettersi in regola e non delinquere, altrimenti continuiamo così. E veniamo a un'altra vicenda politica che sta suscitando polemiche, ossia le dimissioni del sindaco di Castel Volturno, paese in provincia di Caserta. Francesco Nuzzo ha lasciato ieri il suo incarico perché ha detto: sono solo nella lotta contro la camorra. Adesso, ha aggiunto, la camorra potrà stappare bottiglie di champagne. Il sindaco dimissionario è intervenuto oggi a 24 mattino al microfono di Alessandro Milan. Essendo rimasto solo, ho voluto dare una scossa all'ambiente per cercare di convincere attraverso un comportamento così forte la gente a ribellarsi. È vero che lei ha detto: hanno avvicinato i miei consiglieri, certo. Mi chiedevano: piazza il figlio, metti la moglie, metti l'amico. Hanno avvicinato i consiglieri, sì, ma non è stata la camorra però a chiedermi di sistemare figli, parenti, assolutamente. E chi? No, sono stati coloro che erano intorno a me, diciamo consiglieri comunali, ecco. E che qualcuno ha detto: faccia i nomi, Nuzzo. Certamente che io farò i nomi, li farò chiaramente, in modo che anche in futuro le scelte della politica locale possano orientarsi in una maniera positiva. Sicuramente ci tengo a dire che io non ho mollato per paura, io esco a fronte alta perché non volevo sottostare alle fibrillazioni continue di persone che non erano all'altezza della situazione. E sulle dimissioni di Nuzzo ha parlato anche il procuratore di Napoli, Gian Domenico Lepore. Dice: non è ancora venuto da noi, ma avrà i suoi buoni motivi. Poi ha aggiunto che circa il 30% della politica è colluso con la criminalità organizzata. Lepore ha parlato a margine dell'audizione in commissione parlamentare antimafia che è riunita in questi giorni a Napoli. Ammontano a circa 460 milioni di euro i beni mobili e immobili sequestrati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sulla presunta truffa dei prodotti finanziari derivati venduti al Comune di Milano fra il 2005 e il 2007. È la prima volta in Italia che un giudice autorizza il sequestro di sedi, quote e conti bancari. Potrebbe essere solo il primo atto di un'offensiva giudiziaria sui derivati tossici in tutta Italia, quella che ha portato al sequestro di oltre 400 milioni di immobili, quote azionarie e conti correnti a quattro dei maggiori istituti finanziari mondiali nell'ambito dell'inchiesta Madonnina Bond. Una misura senza precedenti che mette in allarme, oltre alle dirette interessate, UBS, Deutsche Bank, JP Morgan e DEPFA Bank, tutte le banche che hanno trattato derivati con le amministrazioni locali. Negli ultimi anni si calcola che ne siano stati piazzati in 18 regioni, 44 province e 447 comuni, per un totale di 35 miliardi di euro, con una passività per lo Stato di 2 miliardi di euro. Il sequestro preventivo si basa su una novità che, se venisse confermata come impostazione accusatoria dal Tribunale del Riesame, potrebbe essere replicata in tutta Italia. L'origine del raggiro sarebbe da individuare, infatti, nella rinegoziazione iniziale del debito del comune, che avrebbe ignorato l'esistenza di un derivato precedente. Il primo gradino di una serie di complicatissime architetture finanziarie basate su contratti mai chiari sulla vera natura di rischio. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora spazio ai libri con l'autorità del settore. Alessandra, di cosa ci parli? Addirittura oggi? Un'autorità mi sembra eccessivo. Allora, oggi ci dedichiamo a chi ama i thriller storici, il genere alla Dan Brown, per intenderci, perché è uscito da poco in libreria La formula Stradivari, scritto dallo spagnolo, precisamente dal basco, Iñaki Biggi, e pubblicato in Italia da Editrice Nord. Il romanzo si svolge su due piani temporali, Cremona 1680 e Madrid 2003. È la storia di un gruppo di nazisti che ricerca 12 violini realizzati da Stradivari e che conterrebbero un codice che rivela il mistero della creazione dell'universo. Ecco come l'autore ci ha descritto i protagonisti. Io credo che avrei unos quattro personaggi principali. Ci sono quattro personaggi principali. Innanzitutto un medico che si vede coinvolto suo malgrado nella storia senza sapere perché e cosa stia accadendo. Poi c'è un poliziotto che si occupa dell'inchiesta su una serie di crimini a catena, come si da chi sta cercando di recuperare i violini. C'è anche una specialista dei violini Stradivari ed è lei che ci fornisce le informazioni sulla vita del grande liutaio. Infine, il rabbino che ha vissuto l'esperienza tragica dei campi di concentramento nazisti. Ed è forse il solo personaggio che conosce la storia e sa perché si sta cercando di recuperare quei violini. Che stanno perseguendo estos para necesitar recuperar esos violines. È tutto frutto della sua fantasia o ci sono degli elementi storici? Gran parte della storia è reale. Per esempio, gli studi che sono stati fatti sulla musica e sull'armonia. Poi, naturalmente, la parte relativa ai campi di concentramento. Infine, il credo esoterico dei nazisti. La trama, invece, è frutto della mia immaginazione, così come l'obiettivo finale che i personaggi sono chiamati a compiere. Il finale di questi personaggi, pues, también è frutto della immaginazione. E a proposito di libri, vi ricordiamo l'iniziativa Io in un libro, iniziativa di Radio 24 e della Fiera del Libro di Torino, che quest'anno si svolgerà dal 14 al 18 maggio. In quale romanzo il vostro io si è identificato? Scriveteci a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Tutte le settimane dell'appuntamento del sabato alle 8:20 uno di voi si aggiudicherà due biglietti per la Fiera di Torino. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. L'influenza suina ancora in primo piano, secondo caso confermato in Spagna. In Europa salgono dunque a 4, sono più di 150 le vittime in Messico, ma sta rallentando il numero dei decessi. E la paura per l'epidemia fa andare giù le borse, penalizzati però anche i titoli bancari. Il Papa nell'Abruzzo terremotato, ora bisogna costruire case e chiese solide, dice Benedetto XVI, lo dobbiamo alle vittime. Maltempo in tutta Italia, difficoltà soprattutto nel nord-ovest. Alle 13 c'è stata la piena della Tanaro nell'Alessandrino, allagamenti e disagi a Roma. Fra poco sentiremo le previsioni meteo per i prossimi giorni, anche in vista del ponte del primo maggio. E sentiremo anche le previsioni di Federalberghi per il ponte del primo maggio. Più italiani in vacanza rispetto all'anno scorso, ma spendono meno. Per quanto riguarda Fiat Chrysler, il nodo sono ancora le banche. Il Tesoro americano minaccia l'amministrazione controllata per spingere all'accordo. Lo dicevamo già nei titoli, si viaggia di più rispetto all'anno scorso, ma si spende molto meno. È in sintesi quel che emerge dalle stime di Federalberghi per il lungo fine settimana che sta arrivando, quello del primo maggio. Ma i numeri nel dettaglio li chiediamo direttamente ad Alessandro Cianella, direttore generale di Federalberghi. Buongiorno Cianella. Buongiorno a tutti. Allora, quanti saranno gli italiani che si sposteranno prevedibilmente per questo ponte del primo maggio? Ma hanno intenzione di spostarsi per il ponte del primo maggio 6,5 milioni di italiani, contro i 4,9 milioni, quasi 5 milioni del 2008, con un incremento significativo quindi rispetto all'anno precedente. Quello che va sottolineato però è che la capacità di spesa dei viaggiatori che hanno intenzione di fare un momento di vacanza in occasione del ponte del primo maggio è diminuita notevolmente. Abbiamo una diminuzione della spesa di circa il 14%, questo inciderà significativamente evidentemente sugli incassi, sui ricavi totali del settore, e probabilmente questo incremento significativo di coloro che hanno intenzione di recarsi almeno un giorno nel corso del ponte fuori della propria località di residenza è probabilmente dovuta alla circostanza che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non abbiamo avuto il ponte del 25 aprile. Ed è anche per questo che voi prevedete un giro d'affari in aumento in realtà rispetto al ponte dell'anno scorso. Beh, certo, il giro d'affari complessivo dovrebbe crescere intorno al 14%, perché aumenta il numero delle persone che viaggeranno, relativamente appunto alla media di soggiorno che è stimata intorno ai 2,8, quasi 3 giorni interi di pernottamento fuori casa, però con una minore spesa da parte di ogni soggetto. Evidentemente la crisi economica incide significativamente anche sulla possibilità di spesa turistica degli italiani. Cianella, rimanga in linea con noi, perché tra l'altro dai vostri dati emerge che più del 90% degli italiani resterà appunto in Italia per quanto riguarda questo breve ponte. In realtà appunto è un lungo weekend più che un ponte del 1° maggio. Rimanga con noi perché abbiamo in linea il meteorologo forse più noto d'Italia, Mario Giuliacci. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, che cosa si prevede dal punto di vista del tempo per questo lungo weekend? Beh, diciamo, non ci lasciamo spaventare da questa situazione di maltempo che c'era ieri forte e ancora ci sarà oggi forte al centro-nord e marginalmente al sud. Domani un po' di meno, ma ancora la regione di nord-est e tutte le regioni centrali ancora con piogge. Giovedì ancora qualche piovasca al centro-sud, ma poi venerdì le cataratte del cielo si chiudono e finalmente ritorna il bello su quasi tutta l'Italia, ancora più bello sabato e domenica. Questo è un esempio di come le nostre previsioni in questo caso possono invogliare la gente ecco, ad uscire. No? Ecco perché la volevamo stimolare proprio su questo, Giuliacci, perché appunto abbiamo ancora in linea un rappresentante degli albergatori che nei giorni scorsi vi hanno criticato parecchio, hanno detto insomma con tutte queste previsioni negative per i fine settimana ci avete fatto saltare un sacco di fatturato, quando poi invece magari il cielo si è aperto improvvisamente e ci sono state delle giornate meravigliose. Che cosa sta succedendo? È così difficile diciamo così in questo periodo fare previsioni? Beh, a parte che per Pasqua se costoro avessero avuto sotto l'immagine del satellite avrebbero visto che il 70% era sotto le nuvole. Penalizzante dalle previsioni sono state in effetti la Liguria e la Versilia, ma non le altre regioni. Per quanto riguarda la primavera, in effetti sì, perché il tempo è mutevole da un giorno all'altro e anche i fenomeni sono molto localizzati, se no diciamo temporali, che posso dire, nel Veneto non è detto che tutte le località del Veneto siano colpite dal temporale, no? Magari colpirà 10 località su 1000, dopodiché dove non è caduto il temporale qualcuno vorrebbe dire hanno sbagliato. Ecco, questo è... Cianella, direttore del punto generale di Federalberghi, allora per questo lungo fine settimana il tempo è buono, fate pace con i meteorologi? Sicuramente pace sì, certo, un po' le previsioni meteorologiche sono un po' come le statistiche, come al solito, sono spesso a volte non attendibili. Anche noi ci auguriamo che le nostre statistiche invece siano attendibili, così come quelle del bel tempo in occasione del ponte del 1° maggio. C'è bisogno di una boccata di ossigeno, di tranquillità, di serenità, di ripresa economica anche nel nostro settore, che sta soffrendo sicuramente dall'inizio dell'anno. Purtroppo si conferma una linea di tendenza, quella della minore spesa, della minore capacità di spesa. È un momento difficile che andrà sicuramente superato. E pare che agli italiani non sia venuta meno comunque la voglia di un momento di evasione, un momento di fuga dalle difficoltà quotidiane. Grazie dunque ad Alessandro Cianella, direttore generale di Federalberghi, e grazie a Mario Giuliacci del Centro Epson Meteo per essere stati con noi. Ora passiamo invece alla rassegna stampa internazionale con la nostra Giulia Crivelli. Giulia, allora, partiamo dalla visita in Spagna del presidente francese. Sì, naturalmente i giornali che giustamente le danno più spazio sono appunto i giornali francesi e i giornali spagnoli, quindi sulle Figaro c'è una foto molto grande in prima pagina di Sarkozy con Carla Bruni che visitano i reali di Spagna. E in questo caso naturalmente Carla Bruni fa un figurone, perché è vestita di bianco e nero, sta benissimo, quasi certamente Dior, lei quando va all'estero veste giustamente Dior, e invece El País, così forse un po' più democraticamente, fa un confronto più ad armi pari. Cioè in prima pagina ci sono Letizia Ortiz, la moglie del principe Felipe, e Carla Bruni, e devo dire lì tutti concordano che non c'è una vincitrice, sono bellissime tutte e due, elegantissime tutte e due. Giulia, si parla moltissimo del mondo di gender policy, ossia della politica nei confronti delle donne, insomma come favorire le donne, l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro e nei posti di potere. In Inghilterra sembra che si stia arretrando. Sì, tra l'altro proprio settimana scorsa ne abbiamo parlato insieme, c'era un progetto in realtà per aumentare le donne, per diminuire le differenze salariali tra uomini e donne. Oggi c'è questa notizia sul Times, che tra l'altro è un giornale conservatore, quindi non è un attacco di parte, diciamo, che sottolinea come nel governo ombra, il shadow cabinet di David Cameron, che sappiamo è all'opposizione, non ci sono donne, è un shadow cabinet, un governo ombra fatto tutto di uomini. Questo stona moltissimo con le belle dichiarazioni, con le dichiarazioni di belle intenzioni e grandi progetti che aveva fatto Cameron quando è stato eletto a capo dei conservatori, del Tory Party. Aveva detto che avrebbe dato più spazio alle donne. Secondo l'analisi, il commento proprio del Times, questa scelta è perché questo è un momento molto delicato per i Tories. Sappiamo che il governo di Gordon Brown è in difficoltà e quindi Cameron preferisce, più che tentare strade nuove come quella di far entrare donne che magari non sono proprio fedelissimi funzionari di partito, affidarsi a persone di cui lui può fidarsi certamente. È un'interpretazione, ma sicuramente delude quanti avevano creduto a queste sue promesse, e quante avevano creduto a queste sue promesse di qualche mese fa. Giulia, ci sono un po' di polemiche su come Rupert Murdoch, l'editore, sta cambiando il Wall Street Journal. Chi ne parla, in che modo? The Nation, che è una pubblicazione bellissima americana, è un po' una specie di residuato della controcultura hippie degli anni 60 e 70 che ha resistito. Si può vedere il sito naturalmente nation.com, e qui c'è una bella analisi che appunto su questo primo anno di Wall Street Journal gestione Rupert Murdoch. Secondo The Nation, mentre Murdoch avrebbe l'intenzione era quella di trasformare il Wall Street Journal in un quotidiano più generalista, quindi più simile al New York Times, invece secondo The Nation sta diventando più simile a USA Today, che è un giornale a larghissima diffusione ma diciamo un pochino più popolare. E secondo The Nation, che tra l'altro non può essere accusato di essere simpatizzante del Wall Street Journal perché sono spesso su posizioni opposte, però è un peccato che un giornale che faceva anche della sua austerità e del suo essere così specializzato nell'economia, è un peccato che si stia generalizzando, perché si perde in qualità e quindi si perde un rivale di qualità per magari acquisirne uno magari un rivale non altrettanto forte proprio perché non altrettanto di qualità, ed è un peccato secondo The Nation. Grazie Giulia Crivelli anche per oggi per questo panorama dei giornali esteri in edicola. Le 13:47 minuti, 9 secondi, adesso parliamo di terapie oncologiche. Perché è stato presentato questa mattina a Roma un rapporto del Censis sulle terapie nella lotta al tumore in Italia. Ci sono dati non solo sul numero dei malati, ma anche su come le regioni si differenziano nel trattamento dei pazienti. Paola Cavadi ha seguito per noi la presentazione di questo rapporto. Allora Paola, che cosa emerge? Sì, buongiorno. Secondo il Censis e la FAVO, la Federazione delle Associazioni di Volontariato Oncologico, il tumore in Italia è diventata una malattia cronica e di massa. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono circa 2 milioni gli italiani a cui è stato diagnosticato nel corso della loro vita un cancro. La mortalità per tumore nel nostro paese rappresenta il 30% del totale dei decessi, anche se, qui emerge una buona notizia, migliora e si allunga, diciamo, la qualità della vita dei malati. Ma gli italiani sostanzialmente non sono tutti uguali di fronte alla malattia. Secondo il rapporto, infatti, le opportunità di accesso alle cure cambiano da regione a regione. Innanzitutto per quanto riguarda la distribuzione dei farmaci innovativi, ma non solo. Risultano carenti, soprattutto nelle regioni del sud, i trattamenti di assistenza domiciliare e psicologica. Inoltre, dato non secondario, solo 9 regioni erogano nei tempi previsti dalla legge le pensioni di invalidità ai malati di tumore. In troppi casi, come avviene ad esempio in Sicilia, si registrano ritardi fino addirittura a un anno. Il ministro del welfare Sacconi, che ha partecipato alla presentazione di oggi, ha assicurato l'impegno del governo nel migliorare l'assistenza, ma senza accordare, ha detto, fondi aggiuntivi alle regioni, perché dice quelle che non sono organizzate e non sono efficienti devono comunque essere commissariate. Questo è il senso del rapporto presentato oggi da Roma. È tutto a voi. Grazie Paola Cavadi. Noi voltiamo decisamente pagina e andiamo in Egitto per la storia di un baciamano che sta facendo discutere tutto il paese. Ce la racconta Adib Fateli. La foto di una donna egiziana che sta baciando la mano al vice premier spagnolo Maria Teresa Fernandez de la Vega sta provocando un'ampia polemica nel mondo arabo. Un'interrogazione parlamentare chiede al governo di capire come un politico straniero abbia potuto entrare in un popolare quartiere della capitale e consegnare a mano e sotto gli occhi delle telecamere $500 ad ogni abitante per una somma totale di 6,3 milioni. La TV Al-Arabiya riporta l'indegnazione dei politici per l'offesa recata alla dignità del popolo egiziano, rappresentato come se fosse una massa di mendicanti. Per le autorità tutto è regolare, nessuna offesa, sono aiuti che rientrano negli incentivi dell'Unione Europea per favorire pace e stabilità nell'area medio orientale. Adil Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ci sono novità nella corsa alla presidenza della CONI ad una settimana dalle elezioni. Era entrato a sorpresa nella corsa da numero uno dello sport italiano e altrettanto a sorpresa ha fatto marcia indietro. Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e senatore del Popolo della Libertà, si era candidato alla presidenza del CONI il 15 aprile, dopo il presidente uscente Petrucci e Franco Chimenti, a capo della Federgolf e sfidante designato. Una discesa in campo non priva di polemiche, quella di Barelli, che aveva dichiarato di aver avuto il via libera dalla stessa presidenza del Consiglio. Parole in cui molti avevano visto una minaccia per l'autonomia dello sport italiano. E allora Barelli ha deciso di fare un passo indietro. Dichiarazioni smentite e niente candidatura. Per l'elezione del 6 maggio restano così in corsa Petrucci e Chimenti. Chiunque vincerà guiderà lo sport nel solco di quel sentiero tracciato dai due uomini che fecero rinascere il CONI dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Giulio Onesti e il senatore a vita Giulio Andreotti. Insieme a Giulio Onesti troviamo questa strada di tenere sempre nettamente distinto sport e politica. Questo è stato seguito e mi sembra che abbia dato dei buoni frutti. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere, un rapido riepilogo delle principali notizie di giornata. Influenza suina, sono 4 i casi accertati in Europa, dopo il secondo confermato in Spagna. Sono più di 150 le vittime in Messico, ma rallenta il numero dei decessi. E la paura per l'epidemia fa intanto andare giù le borse, penalizzati anche i titoli bancari. Secondo la Banca Centrale Americana, Bank of America e Citigroup potrebbero aver bisogno di nuove iniezioni di capitale. E per l'accordo Fiat e Chrysler, il nodo sono ancora proprio le banche. Il Tesoro americano minaccia l'amministrazione controllata per spingere all'accordo. Il Papa è oggi nell'Abruzzo terremotato e dice ora bisogna costruire case e chiese solide, lo dobbiamo alle vittime. Maltempo in tutta Italia, difficoltà soprattutto nel nord-ovest, a minuti è prevista la piena del Tanaro nell'Alessandrino, allagamenti e disagi a Roma, ancora pioggia per i prossimi giorni, poi venerdì il cielo si aprirà secondo le previsioni. E per il ponte del primo maggio, le previsioni di Federalberghi, più italiani in vacanza rispetto all'anno scorso, ma spenderanno meno. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Cece con in regia Filippo Aureggi. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Se volete riascoltare la puntata o sentire anche altro materiale audio, il nostro indirizzo è il solito, www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, Extra Large torna invece domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.